24 mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Dopo il nostro bar lamento, come precisa un'ascoltatrice, eccoci con la rassegna stampa. Ringrazio tutti gli ascoltatori che hanno già mandato dei messaggi al 349-238-6666 e all'attentissimo ascoltatore che ha notato che ho detto che mi auguro e speriamo per il quorum, quello che volevo dire, perché sappiamo che il referendum del 4 dicembre non ha un quorum, cioè sarà valido comunque, indipendentemente dalla percentuale di elettori, di aventi diritto che andranno a votare. Io quello che dicevo è speriamo che ci sia un'affluenza il più alta possibile, perché è sempre un segnale di partecipazione che quindi secondo me è positivo. Ma veniamo appunto alle prime pagine dei giornali. Cominciamo dal Sole 24 Ore, anche se poi altri spunti ce li darà Mauro Meazza nel consueto collegamento intorno alle 7.40. L'apertura del Sole 24 Ore parla di banche, il titolo è "L'Europa riscrive le regole", perché ieri la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte per il settore creditizio, importante perché sappiamo che è stato forse l'argomento economico-finanziario più dibattuto in Italia, in Europa e non solo, in questo anno che sta per finire. Ci sono molte banche in crisi, in Italia abbiamo il grande malato Monte dei Paschi di Siena, c'è una fusione importante in corso tra Banca Popolare di Milano e Banco Popolare. E su questo, tra l'altro, vi segnalo sul Sole 24 Ore un articolo di Monica D'Ascenzo che riprende in realtà l'inchiesta pubblicata di Claudio Gatti, pubblicata il giorno prima, cioè ieri era mercoledì, quindi mercoledì, proprio su questa fusione, sui dubbi che ci possono essere anche guardando i verbali e tutto quello che ha portato a questa fusione. In realtà però ieri i vertici delle due banche hanno risposto: non ci sarà modifica al piano della fusione, nonostante appunto tutti i rilievi fatti da questa dettagliatissima inchiesta di Claudio Gatti, che trovate anche sul sito del Sole 24 Ore. Il Corriere della Sera parla di inchieste, ma non bancarie, quelle che agitano il voto, così il titolo del Corriere della Sera, che naturalmente fa riferimento che tra l'altro non c'entrano col merito del referendum, naturalmente, però agitano il voto. Da una parte ci sono quelle sulle la raccolta di firme false del Movimento 5 Stelle a Roma e adesso anche a Bologna, ci sono anche già degli indagati. Poi c'è l'altra inchiesta che viene chiesta dalla Commissione Antimafia guidata da Rosi Bindi per voto di scambio dopo le dichiarazioni di De Luca a un vertice campano, dove sostanzialmente invitava con toni che ciascuno può giudicare, insomma, se seri, non seri, se giustificano una vera e propria inchiesta per infiltrazioni mafiose. Appunto invitava tutti a convincere gli elettori campani a votare per il sì, perché così il governo Renzi è più forte e così continua sostanzialmente ad arrivare fondi per la campagna. Vi segnalo però dalla prima pagina del Corriere della Sera la fotonotizia che parte dalle nomine, di cui abbiamo parlato anche prima con le nostre due ospiti Carla Rocchi e Silvia Brasca, le prime due nomine di donne che ha fatto Trump per la sua prossima amministrazione. Si tratta di Nikki Haley come ambasciatrice degli Stati Uniti all'ONU e di Betsy DeVos come segretario, cioè ministro, l'equivalente di un ministro nostro, segretario all'istruzione. E poi vi segnalo una bellissima intervista che in realtà è contenuta in un libro che sta uscendo proprio in questi giorni, di Gian Giacomo Schiavi a Gillo Dorfles, che è un critico d'arte, scrittore, pittore e docente all'università e ha 106 anni. E la lucidità di questa intervista e anche la vitalità di quest'uomo, appunto, di 106 anni è incredibile. Quindi vi invito tutti a leggerla poi a pagina 41, e che tra l'altro il Dorfles ironizza anche molto sulla sua età e dice: il segreto per vivere così a lungo lo svelerò dopo la morte. E visto che di ultracentenari stiamo parlando, oggi c'è in edicola Oggi e combinazione sulla copertina ho visto il richiamo a un articolo che poi trovate alle pagine 66 e 67, perché la persona più anziana al mondo, che si sappia, è un'italiana, si chiama Emma Morano, ha 117 anni, vive a Pallanza in provincia di Verbania. e i giornalisti di oggi, il giornalista di oggi Edoardo Rosati è andato a trovarla insieme a Walter Longo, che è diciamo un guru della longevità, ha appena anche pubblicato un libro che si chiama appunto La dieta della longevità. La Repubblica invece ha un titolo leggermente diverso, ma il tema è quello, cioè le inchieste che agitano questo ultimo scorcio di campagna elettorale verso il referendum del 4 dicembre. Il titolo esatto è De Luca, l'antimafia chiede le carte ai PM, Movimento 5 Stelle, altra inchiesta. Il riferimento è appunto a quella di Bologna dopo quella di Roma. La fotonotizia però è fa riferimento a un articolo che poi trovate alle pagine 18 e 19, un'inchiesta di Repubblica. Il giornalista Fabio Tonacci è andato a Spoleto per vedere quello che viene chiamato il bunker dell'arte ferita, cioè il rifugio dei capolavori di tutte le opere definite terremotate, cioè le opere che sono state o già o in parte danneggiate o che comunque andavano messe in sicurezza, portate via dagli edifici che non sono sicuri e poi piano piano restaurate se necessitano di restauri o rimesse al loro posto originario se appunto le chiese, i musei danneggiati, quando le chiese e i musei danneggiati verranno ristrutturati. Il Messaggero ha un titolo diverso che è Renzi al colle sul dopo voto, quindi dà per il Messaggero dà per scontato il fatto che se a seconda di quello che succederà e soprattutto se vincerà il no, Renzi appunto andrà al colle, cioè da Mattarella, perché sapete che è il Presidente della Repubblica Mattarella a decidere se sciogliere le Camere e quindi andare a elezioni anticipate oppure, come è successo con Napoletano quando c'è stata la transizione dal governo Berlusconi a quello di Monti e poi Letta e poi Renzi, a decidere se appunto va formato un nuovo governo. La fotonotizia anche in questo caso dedicata alle nomine di Trump, però vi segnalo anche dalla prima pagina del Messaggero una notizia su una delle tante inchieste che vanno avanti anche se ne parla sempre meno, cioè quella sull'assessore Muraro della giunta di Virginia Raggi a Roma. È previsto un interrogatorio prima di Natale perché si indaga anche sulle nomine, sulle minacce che hanno portato poi al formarsi di questa controversa giunta di Virginia Raggi. Poi anche un approfondimento sul vaccino, tema di cui si parlerà anche dopo con Oscar Giannino, sul tema appunto di rendere il vaccino, soprattutto per i bambini, obbligatorio. La Stampa ha un titolo simile a quello di Repubblica, firme false ai magistrati nella sfida fra PD e Grillini il giorno dei colpi bassi. La fotonotizia però è dedicata anche in questo caso a un'inchiesta della Stampa. Il titolo è Tradimenti e finti fidanzati, l'amore al tempo delle app. Le app possiamo decidere se scaricarne tante, poche o nessuna, e ce ne sono naturalmente, come sappiamo, per qualsiasi cosa, anche per tutto quello che riguarda le relazioni personali e le relazioni d'amore. E a questa inchiesta fa da corredo un racconto di Esther Armando, che poi trovate a pagina 23, lo smartphone che mi avvisa se lui ha un'altra, non so come faccia, ma possiamo così fantasticare anche su questo. Ci fermiamo però ora un attimo per una pausa. Prima però auguro a tutti, soprattutto agli ascoltatori americani che ci ascoltano, Happy Thanksgiving, perché oggi appunto giovedì, l'ultimo giovedì di novembre, in America si festeggia il Thanksgiving, il giorno del ringraziamento. Ci sentiamo tra qualche minuto. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando i messaggi, in particolare all'ascoltatore che giustamente dice le firme false non sono a Roma ma a Palermo. Certo, è stato proprio un lapsus e gli indagati sono andati a cercarlo, ci sono 4 indagati per le firme false del Movimento 5 Stelle a Bologna e 10 invece sono gli indagati a Palermo. E tra l'altro ancora Happy Thanksgiving a tutti, oggi appunto è il giorno del ringraziamento, visto che avete appena sentito parlare di Black Friday, quello sarà domani. Perché si chiama così? Negli Stati Uniti è tradizionalmente il giorno in cui si inizia lo shopping natalizio e si chiama Black, nero, perché è talmente un giorno di vendite record, perché tra l'altro tutti fanno grandi offerte, sconti e offerte speciali, che quel giorno si dice molti bilanci passino dal rosso, se erano in rosso, al nero, cioè dal passivo all'attivo, perché appunto è la giornata della svolta per lo shopping. Ma torniamo sui giornali. giornali italiani. Con La Stampa oggi in edicola c'è Origami, che è quella formula strana di giornale di supplemento tutto piegato, quindi per leggerlo bisogna aprirlo su un tavolo. È molto bello perché è dedicato tutto alla scuola. Abbiamo parlato prima della nomina di Trump, del segretario, quindi del ministro dell'istruzione, che sarà una donna. E con le nostre ospiti a Parlamento dicevamo è un ministero che forse è importantissimo, ma a volte addirittura viene invece considerato meno importante e per questo, maliziosamente dicevamo, affidato alle donne. Ma sulla copertina di Origami vi leggo solo queste due parti. Una è una citazione di Aristotele: insegnare. In generale il carattere che distingue chi sa rispetto a chi non sa è l'essere capace di insegnare. Per questo noi riteniamo che l'arte sia soprattutto la scienza e non l'esperienza. Infatti coloro che posseggono l'arte sono capaci di insegnare, mentre gli empirici non ne sono capaci. E poi invece una citazione di Maria Montessori, una delle più grandi pedagogiste del secolo scorso, non solo italiane ma proprio a livello mondiale. La citazione è tratta da La scuola e libertà, un libro ripubblicato da Garzanti quest'anno, e si intitola Imparare. La realizzazione di se stesso si effettua nel bambino attraverso l'amore. Non si tratta del concetto che si ha comunemente dell'amore, indicando con tale parola un sentimento emotivo. È un amore di intelligenza che vede, osserva e amando costruisce. Quell'ispirazione che spinge i bambini a osservare si potrebbe chiamare, con un'espressione dantesca, intelletto d'amore. L'importanza, insomma, della scuola, di mettere le basi per futuri cittadini, per bambini che diventino persone con una coscienza il più possibile sviluppata, è naturalmente importantissima. Tra l'altro attuale in questo momento in Italia, perché si sta facendo l'ennesima riforma della scuola. Ma vediamo la prima pagina del Manifesto, che ha due titoli completamente diversi dalla maggior parte dei giornali. Uno riguarda quello che è successo ieri in Francia, e tra l'altro sicuramente Mauro poi ci parlerà dell'approfondimento fatto da Jacopo Giliberto su questo, sul Sole 24 Ore. Il titolo del Manifesto è Nucleare, allarme, sicurezza, e questo riguarda le centrali atomiche appunto in Francia, dove sapete ce ne sono molte di più che in Italia, e c'è quell'antica polemica del fatto che in Italia con un referendum abbiamo bandito l'utilizzo di energia nucleare, ma poi la compriamo l'elettricità spesso dalla Francia, che viene dal nucleare, e naturalmente sono metaforicamente due passi da noi, e sicuramente un incidente nucleare in Francia avrebbe degli effetti anche in Italia. Il titolo principale, però, con la solita scelta di parole un po' a effetto del Manifesto, è Rosa Shocking. Dall'inizio dell'anno in Italia sono 123 le donne uccise per motivi sessuali. Domani appunto la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, sono previste iniziative in tutto il mondo, e a Roma sabato ci sarà una manifestazione nazionale che vedrà una grande partecipazione. E questa notizia viene il giorno dopo, lo avete sentito, la condanna a 18 anni, una condanna esemplare di 3 anni superiore a quella chiesta dall'accusa per l'uomo che all'inizio di quest'anno ha dato fuoco alla sua compagna, che era incinta di 8 mesi all'epoca. Si sono salvati sia la bambina che la donna, però con conseguenze che hanno portato anche solo fino adesso a 20 interventi per ridare a questa donna una vita semi normale. Il Fatto Quotidiano si concentra invece, il Fatto Quotidiano lo sapete è apertamente schierato per il no al referendum, e quindi si concentra su quello che viene definito un servizietto pubblico. La RAI e la Boschi arruolano persino i malati di cancro, secondo il Fatto Quotidiano, appunto, o meglio, secondo il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano interpreta questo intervento di ieri a Politics, la trasmissione di Rai 3, di Maria Elena Boschi, ministro per le riforme, che ha parlato naturalmente della sua riforma cercando di convincere di votare chi era sintonizzato in quel momento a votare per il sì, e quindi il Fatto molto critico su questo, che si inserisce anche nella questione della copertura che la RAI sta facendo delle ragioni del sì e delle ragioni del no, e appunto il titolo principale è proprio su questo. Poi a centropagina ce n'è anche uno che riguarda l'inchiesta dell'antimafia su De Luca, e il fatto che comunque Renzi lo vuole commissario. cosa significano queste quattro parole. In realtà fanno riferimento a un emendamento alla finanziaria che torna a rendere possibile la nomina del presidente di una regione anche a commissario della sanità. E sapete che è una nomina cruciale, perché la sanità è la prima voce di spesa per il bilancio delle regioni e in generale per il bilancio dello Stato. La Verità, il quotidiano fondato da Maurizio Belpietro poco più di un mese fa, referendum 20 ragioni per votare no, quindi anche La Verità è chiaramente schierata. Libero ha un titolo ancora diverso che si riferisce a una vicenda resa nota ieri, cioè di la moglie di Brunetta che si è finta un esponente del Movimento 5 Stelle per esporre le ragioni del no, e quindi Libero molto ironicamente titola "State attenti a questi due". La foto è di Brunetta con la moglie. Lui fa un emendamento che danneggia Mediaset, l'azienda di Berlusconi. Lei si finge fan del Movimento 5 Stelle per attaccare in incognito i rivali del marito sul web. Ultimo titolo prima di sentire Mauro, L'Unità, eppur sì, con la S maiuscola, muove. Forse L'Unità, insomma, non so se è un wishful thinking, perché i sondaggi, lo ricorderete, da venerdì prossimo non si possono più rendere noti, i sondaggi che appunto indagano se in questo momento prevale chi vuole votare sì o chi vuole votare no, e però L'Unità sembra appunto molto ottimista. Ma sentiamo ora da Mauro invece qualche spunto in più sul Sole 24 Ore di oggi. Oh, buongiorno cara Giulia, buongiorno a tutti gli ascoltatori naturalmente. Tu sai che ti ricordi naturalmente che a dicembre bisognerà pagare il saldo IMU se è necessario, o la TASI, invece quella dell'IMU, perché sulla prima casa non si paga più, come è noto, ma la TASI invece c'è. Ecco, potrai tornare a usare l'F24 cartaceo. Tu dici, come mai mi racconti questo? Perché sta arrivando alla sua definitiva conversione il decreto legge fiscale, che era quell'antipastino della manovra. Ti ricordi la prima parte della legge di bilancio? Ecco, ne riferiamo oggi nelle pagine di norme e tributi, che insieme a tutte le altre modifiche che stanno arrivando. Tu naturalmente queste pagine sai che le devi leggere con religiosità. Con religiosità o religiosamente, me ne compiaccio. C'è un altro decreto molto importante che sta arrivando alla sua definitiva conversione, ne vedrai però traccia nelle pagine di imprese e territori, che leggerai con scrupolo, io direi, ti consiglierei con scrupolo, ma il decreto, a parte gli scherzi, è molto terremoto. Importante perché è quello per il terremoto, esattamente. Okay. Anzi, i due decreti, perché come sappiamo c'è stata purtroppo la necessità di un doppio intervento, e allora le misure per la ricostruzione, gli aiuti alle imprese e anche l'assegnazione degli alloggi temporanei per le popolazioni colpite, ecco, sono tutte in questo decreto, di cui riferiamo anche nei dettagli nelle pagine imprese e territori. Oh, poi so che già hai annunciato questo articolo, che direi da meditazione, di Jacopo Giliberto sul nucleare, che appunto potrebbe ripercuotersi i controlli in corso in Francia, e non solo in Francia, anche in Germania c'è una stretta, potrebbero ripercuotersi sull'acquisto dell'energia da parte nostra, e quindi le nostre bollette potrebbero un pochino risentirne. Vabbè. No, tra l'altro scusami, ti interrompo un attimo. Prego. Perché è arrivato un messaggio che dice che gli ascoltatori sono attentissimi, che ho detto una sciocchezza dicendo che la Francia ha molte più centrali nucleari che l'Italia. Quelle che ci sono in Italia naturalmente sono spente, non funzionano più, però purtroppo ne abbiamo anche noi e sappiamo, quindi comunque il tema era: la Francia ha centrali nucleari che funzionano, noi abbiamo detto no al nucleare, però poi, come dicevi anche tu, compriamo poi energia dalla Francia. Energia. Sì, no, ringraziamo l'ascoltatore puntuale, riferisce anche Jacopo Giliberto, appunto ci sono anche da noi degli impianti che sono fermi, hanno bisogno però di manutenzione, ma qui il tema che viene affrontato oggi è proprio quello di un possibile aumento del costo dell'energia. Da meditazione anche quanto scrive Vito Lops sullo spread. Ti mancava lo spread, Giulia? Tanto, no? Tantissimo. Il confronto con la Germania, sempre veramente defatigante. Ecco, sì, che è sempre, quando risale ci preoccupiamo un po' tutti. Vabbè, ieri 187, insomma si è un po' riscaldato, dicono i tecnici, ma adesso non ti posso riassumere, ti invito invece a meditare sull'articolo di Vito Lops, naturalmente ci sono tante condizioni che influiscono, le decisioni del presidente eletto americano Trump, di cui già hai parlato, c'è naturalmente la incertezza per quanto riguarda l'esito del referendum, insomma tante condizioni, e lo spread si muove di nuovo, l'avevamo lasciato a livelli molto più bassi, intorno ai 100-110, adesso abbiamo rivisto questo 187. Oh, e poi c'è la prima stima sugli effetti della Brexit per la Gran Bretagna, ieri è stata presentata quella che potremmo chiamare la loro finanziaria, e stimano di doverci rimettere qualcosina come 70 miliardi. Però sono solo stime per adesso, si attendono un rallentamento della crescita e anche la necessità di aumentare la spesa. Forse anche questo qui è un po' un articolo da meditazione, cosa dici Giulia? Assolutamente, perché la Brexit, ne parleremo ancora, perché nessuno sa effettivamente, no? La signora Theresa May deve ancora darci tutti i dettagli della sua idea di Brexit, quindi... Ma diciamo che la Brexit, parafrasando Iannacci, resta sempre un buco nero in fondo al tram, come diceva appunto il poeta Iannacci. Oh, ci sono molte altre cose, ma naturalmente oggi è la giornata decisiva, questa va detta, per il Monte Paschi. Decisiva non è una citazione dell'aggettivo caro ad Alessandro Milan, ma invece è decisiva nel senso che c'è l'assemblea per quanto riguarda l'aumento di capitale, e naturalmente ne riferiamo nelle pagine di Finanza e Mercati che tu andrai a leggere, così come consiglio agli ascoltatori. Ti ricordi l'avverbio corretto? Religiosamente. No, religiosamente è norme tributi. Quelle norme tributi. No, per finanza noi consigliamo avidamente. Avidamente, ok. Esatto. Infine, ultimo, ma non per questo meno importante, c'è stata una decisione sui diritti dei nonni nel caso di genitori separati. Ha fatto molto effetto anche a me quella notizia. Ecco, perché allora sostanzialmente, guarda, il Tribunale di Venezia ha detto che quello dei nonni a mantenere rapporti con i nipoti è un diritto che c'è, ma è, come si dice in gergo, comprimibile. Cioè, nell'interesse poi del nipotino, se il nonno non può vederlo, è pazienza. Io l'ho riassunto male, molto meglio di me lo spiegano le pagine di Norme Tributi. E per oggi, cara Giulia, tutto ciò premesso, traffico! "24 Mattino". Ancora buongiorno da Giulia Crivelli per l'ultima parte della nostra rassegna stampa. Ci mancava l'Avvenire, che ha un titolo completamente diverso da quello degli altri giornali, che pure parlano di questa questione ma non in modo così centrale, ed è "La morte sottile", perché fa riferimento al rapporto europeo che ha spiegato che ci sono state 467 vittime di smog nel solo 2013, i dati sono appunto non aggiornatissimi, in Italia sarebbero 66.000. E poi un'altra notizia che l'Avvenire mette al centro della sua prima pagina è quella sulla spesa militare. Anche qui, dati resi noti ieri, in 10 anni la spesa militare dell'Italia è cresciuta del 21% ed è, secondo l'Avvenire, che lo mette tra parentesi, a sorpresa, una crescita appunto a sorpresa. Ma veniamo alle pagine interne dei quotidiani. Dal Corriere della Sera vi segnalo una lunga intervista di Paolo Conti a Walter Veltroni, dove intitolata "La RAI non pensi solo all'audit, paghiamo il canone per avere qualità", e il riferimento implicito e poi però esplicitato è alla trasmissione che Walter Veltroni ha ideato per la RAI e che è andata in onda il sabato sera, cioè una serata in cui tradizionalmente ci sono programmi che palesemente devono, insomma, non sono particolarmente sofisticati, ma devono fare audience. E la domanda quindi inevitabile di Paolo Conti è: forse qualcuno potrebbe dire che questo suo discorso sul non guardare all'audit serve a giustificare il 12% di Rai 1 del programma "Le 10 cose che lei ha ideato". C'è chi ha parlato di un flop, e Veltroni risponde: "Io ho fornito l'idea, senza ovviamente interferire nelle scelte autoriali adottate da chi ha più competenza di me. Il programma ha esplicitamente adottato un codice diverso dal canone del sabato sera. Secondo me ha rappresentato un esperimento interessante che ha fatto incontrare milioni di persone con contenuti originali, e la società di produzione Magnolia ha avuto segnali di interesse per il format da TV straniere, ma è chiaro che un prodotto del genere non fa gli stessi ascolti di "Ti lascio una canzone", quindi autocritica mai. Uno potrebbe dire vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Vi segnalo dal Corriere della Sera, pagina 12, un interessante specchietto che mette a confronto le frasi prima del voto di Trump e le frasi dopo il voto, ed è appunto, ne parlavamo anche nella prima parte di 24 Mattino, il cambiamento un po' di Donald Trump dai toni molto duri della campagna elettorale a quelli più concilianti invece del dopo voto. Dalle pagine interne di Repubblica vi segnalo un articolo che prende spunto da uno studio pubblicato da Lancet, che è una delle più importanti, una rivista britannica, una delle più importanti riviste mediche, e viene sintetizzato così l'articolo: Lancet boccia il mito di Babbo Natale, i bambini imparano a non fidarsi degli adulti, quindi il consiglio adesso è di abolire questo segreto più amato che divide però appunto gli psicologi. Poi c'è un commento di Marino Niola che si intitola Salviamo la magia che rende complici grandi e piccoli, quindi il contrario esatto di quello che secondo alcuni psicologi avviene, cioè una mancanza di fiducia, perché quando si scopre poi che Babbo Natale non esiste, e invece Marino Niola che dice è una forma di complicità. Vi segnalo dalle pagine della cronaca di Milano di Repubblica, quindi chi compra Repubblica lontano da Milano non potrà leggere questo articolo, ma è molto interessante, si intitola Senza barriere ed è una mappa di tutti i treni e le metropolitane che hanno stazioni aperte ai disabili, per capire appunto quanto sia facile o nella maggior parte dei casi difficile muoversi con i mezzi pubblici per chi è su una sedia a rotelle. E c'è anche un'intervista a Lisa Noia, che è una delegata del sindaco alle politiche per la disabilità ed è anche un avvocato, e dice: noi dobbiamo programmare tutto, la città è piena di trappole quotidiane. E faccio un piccolo collegamento in tema di disabilità, un articolo che invece è pubblicato da Libero parla perché anche gli animali naturalmente sono colpiti da disabilità, e c'è un progetto pilota in una scuola elementare di Livorno dove i cani disabili, e ci sono alcune foto, insegnano ai bambini che a loro volta sono disabili ad accettare la disabilità, quindi una forma diversa che non avevo mai sentito di pet therapy, che credo tutti concordino nel dire che nella maggior parte dei casi è efficace la pet therapy, appunto la terapia con gli animali, cani ma anche gatti, per curare moltissime patologie, persino pensate per patologie come l'autismo, per il quale purtroppo nessuno ha per ora trovato una cura. Vi segnalo dalla Stampa invece una storia interessante raccontata da Giulia Zonca sul Leicester, la squadra allenata da Claudio Ranieri, che sapete ha vinto la Premier League, il campionato l'equivalente della Serie A nel Regno Unito nel 2016. E Giulia Zonca ci racconta Leicester, dove tutto è possibile. Leicester è una città circa nel centro dell'Inghilterra, quindi a nord di Londra, quando il calcio sveglia l'economia. Campioni d'Inghilterra ed eroi d'Europa, il club attira i turisti mai visti prima in una città come Leicester. A proposito di chi vuole viaggiare, sempre sulla Stampa, un approfondimento su New York, non che non ci siano guide o suggerimenti su New York, però in questo caso la Stampa ci racconta, Marco Moretti sulla Stampa ci racconta la New York di Bob Dylan, nell'attesa tra l'altro di sapere se il cantautore americano che ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura andrà poi a ritirarlo e se ritirerà anche l'assegno. Cose più serie, cose di casa nostra, come dico sempre sul Messaggero, il Messaggero è l'unico giornale, è il principale quotidiano di Roma, quindi forse è anche normale che sia così, è l'unico giornale che segue ogni giorno nelle pagine di Roma, purtroppo, dico purtroppo perché secondo me è una cosa che dovremmo seguire tutti con più attenzione, l'inchiesta che va avanti sulle varie inchieste che sono in corso a Roma. C'è quella su Mafia Capitale di cui si è parlato nei giorni scorsi, ma c'è anche quella sullo scandalo, tutto quello che ruota intorno alla questione, alla gestione, allo smaltimento dei rifiuti. E a pagina 7 trovate appunto l'aggiornamento sull'inchiesta che ha coinvolto l'assessore Muraro. Purtroppo era l'ultima segnalazione per oggi, ringrazio tutti gli ascoltatori, anche Gian che mi dice che forse sono innamorata perché commetto degli sbagli, purtroppo no, non sono innamorata, e però insomma mi scuso per le imprecisioni e gli sbagli che capitano sempre. Ancora una buona giornata da Giulia Crivelli, dopo di noi ci sarà Oscar Giannino e come ho anticipato uno degli argomenti sarà quello dell'opportunità di rendere i vaccini obbligatori nelle scuole o nei luoghi pubblici. Ancora un buon giovedì, un buon Thanksgiving a tutti da Giulia Crivelli.